24 Mattino di Simone Spezia e con Maria Latella. Alle 8 e 16 minuti inizia la terza parte di 24 Mattino di questo mercoledì 25 marzo. Care ascoltatrici, cari ascoltatori, di nuovo buongiorno da Simone Spezia e buongiorno Maria Latella. Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. No, ferma, che abbiamo il problema tecnico di collegamento. Intanto dico agli ascoltatori, lo sanno, però glielo ripetiamo: ci potete raggiungere al 349-238-6666 per sms, messaggi su WhatsApp e soprattutto WhatsApp audio, la vostra voce. 800-24-0024 per intervenire in diretta. E Maria Latella l'abbiamo recuperata. Maria, ci sei? Sì, ci sono. Volevo commentare quello che avete appena detto con Paolo Mieli, perché effettivamente c'è un po' di agitazione sottotraccia nella politica, ma non lo si vede soltanto come dire, negli attacchi a Conte più o meno fondati, lo si vede anche nel posizionarsi a livello locale dei presidenti di regione, che già annusano il fatto di dover rendere conto ai propri cittadini di quello che sta succedendo nelle loro regioni. Mi ha colpito in questo senso l'intervista che Giorgio Gori ha dato al Messaggero. Perché? Perché di fatto, non proprio direttamente, ma almeno il titolo lo lascia intuire, attacca la sanità lombarda, che è anche un modo di mettere in difficoltà il governatore Fontana, è stato nostro ospite qualche giorno fa. Questo perché? Perché si comincia, tra i sindaci, i presidenti di regione, si comincia a posizionarsi in vista delle elezioni regionali che ci saranno a ottobre. Voi direte: con quello che sta succedendo questi pensano già alle elezioni? La politica è fatta così. Del resto, Maria, si era già candidato una volta e gli è andata male, chissà che non ci voglia riprovare a danno di Fontana. Del resto, Maria, l'assessore alla sanità Lombardo Gallera ha esplicita domanda in un'intervista, adesso andrò a recuperare su quale quotidiano, ad un'esplicita domanda Corriere della Sera, sì. Ad un'esplicita domanda dice: beh, se adesso sono in trincea, ma se mi chiedono di candidarmi a Milano, beh, tutto sommato non mi sottraggo. Ma come vedete, sono convinta che Gallera stia lavorando per candidarsi presidente della regione Lombardia. Vedremo se i fatti ci daranno ragione per il centrodestra. E come vedete, dunque, mentre il dramma è in corso, la politica, come dire, guarda lontano. Non so se questo piacerà. Lontano non lo so. Sicuramente guarda al consenso, del resto è parte del suo mestiere. Tra un attimo verremo a fare un punto della situazione, sia sanitario sia delle ordinanze, di quello che succede. Poi parleremo con Pierpaolo Sileri, no? Il viceministro della Salute, e ci faremo anche un po' raccontare del suo Covid-19, perché è appena uscito e sta uscendo in questo momento da una brutta polmonite. È la prima volta che abbiamo un testimone diretto, qualcuno che ha vissuto la vicenda così, Covid così di diretta, persona. Così direttamente, colpisce, così pesantemente. Mi colpisce che si perda l'olfatto, è una cosa che ha detto anche Maldini. Dopo il Covid-19 l'olfatto non c'è più, questo perché pare che vengano toccati alcuni diciamo centri del cervello, ma insomma il dottore, perché è anche un medico, Sileri, ci spiegherà tutto nel dettaglio. Intanto però andiamo sulla questione delle aziende. Oggi ci sarà un nuovo incontro tra governo e sindacati alle 12. L'obiettivo è scongiurare una serie di scioperi e soprattutto fare un punto su quella che dobbiamo dirlo è stata una discreta confusione in merito a cosa deve rimanere aperto, cosa deve rimanere chiuso. L'annuncio a tarda notte di sabato di un decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, poi domenica la definizione dei famosi codici Ateco, quelli che indicano l'attività economica, e poi insomma la definizione di alcuni dettagli per cui alcune aziende non rientranti nei codici Ateco, se sono essenziali devono comunicarlo alla prefettura. Insomma, una fase non facile. Siamo con Alberto Dal Poz, che è presidente di Federmeccanica, che è l'associazione di Confindustria che raccoglie le aziende del settore metalmeccanico, che è un settore, come sapete, amplissimo, nel quale molte aziende hanno anche a che fare con produzioni considerate in questo momento essenziali. Dal Poz, benvenuto, eccoci. Buongiorno, buongiorno presidente. Maria, buongiorno. Prego. Buongiorno. Senta, il suo settore è uno dei settori strategici anche per le esportazioni. La meccatronica è uno dei settori chiavi della nostra industria. Continua ad aleggiare la possibilità dello sciopero generale. Io credo che i sindacati si rendano conto anche del fatto che se le nostre esportazioni si bloccano in un settore così delicato, ci saranno, no, altre aziende di altri paesi pronte a sostituirci. Dunque, poiché mi pare impossibile che questa cosa non venga percepita, mi aiuta a capire qual è la questione sulla quale appunto si sta cercando una mediazione anche con il governo. Sicuramente è una questione di prevenzione e di salute dei lavoratori. Mancano le mascherine mancano in tutta Europa, perché oggi il Guardian titola proprio sul fatto che i medici inglesi minacciano di fermarsi perché non hanno strumenti di difesa per loro. Quindi come se ne esce, Presidente, dal pozzo? Allora, proviamo a partire da due numeri, giusto per far capire qual è l'entità, come diceva lei, dottoressa Latella, della quantità di export che è in qualche modo riconducibile a tutte le nostre filiere metalmeccaniche. Partiamo da un dato 2019. Circa 470 e rotti miliardi è stato l'export italiano. Il 48% di questi vengono da filiere metalmeccaniche, quindi diciamo circa la metà di tutto l'export italiano, di tutto, è generato dalle nostre filiere. Quali sono i settori, quali sono, con questa suddivisione molto grezza, ma che è quella che abbiamo, quindi attraverso i cosiddetti codici Ateco, qual è la percentuale di queste aziende che dovrebbe fermarsi a partire da stasera, tra cui le mie di aziende? Circa il 15%. Tra 15 e il 20%. Abbiamo fatto delle stime partendo dal numero dei lavoratori, perché il dato basato su numeri Istat che avevamo più aggiornato. Quindi significa che tecnicamente da domani, diciamo, l'80% di tutto questo export smetterà di fatturare. E smetterà quasi di colpo, perché tre giorni, quattro giorni, partendo da sabato sera, nel settore industriale è un battito di ciglia, è un niente. Immagini che cosa vuol dire per i soggetti che hanno commesse che durano mesi, che durano anni, ordinativi, che hanno bisogno di lunghissimi periodi per realizzarsi, per concretizzarsi. Quindi, premesso che io ci tengo a ribadire ancora una volta che la salute di tutte le persone e soprattutto delle persone che lavorano con noi nelle nostre aziende è la nostra priorità assoluta. E non c'è mai stato un impegno più forte da parte di Federmeccanico come in questo periodo per tutelarla. Sapete benissimo che siamo stati sempre in prima linea per tutte le tematiche legate all'igiene e alla sicurezza del lavoro, quindi mai come in questa fase siamo sensibili alla tematica della sicurezza sul lavoro e la salute dei nostri lavoratori. Però abbiamo anche il dovere, l'assoluto dovere, di rallentare, di spegnere ove necessario le nostre imprese, garantendo che le imprese stesse siano pronte nel più breve tempo possibile a ripartire, perché non è pensabile che il sistema manifatturiero, soprattutto quello metalmeccanico, ma è un discorso assolutamente applicabile a tutti, si possa spegnere istantaneamente come si spegne un'automobile, ma piuttosto è come da rallentare come una grande petroliera che ha bisogno di spazi lunghissimi per rallentare, ha bisogno di molto tempo per ripartire e soprattutto non dobbiamo rischiare di parcheggiarla, di fermarla senza carburante. Questa è la nostra preoccupazione più grande. Questa è la preoccupazione, dall'altra parte insomma c'è, come si diceva, un po' di preoccupazione da parte dei lavoratori, di alcuni lavoratori, che poi si riflette nelle prese di posizione del sindacato, e mi sembra di capire dal POZ in questi giorni, come diciamo, una certa confusione, no? Perché anche questo decreto che prevedeva alcuni codici Ateco prima, altri codici Ateco dopo, poi si è detto no, forse addirittura finiremo per toglierli i codici Ateco perché li imprese essenziali si distinguono in un altro modo, insomma ci sembra che ci sia stata un po' poca direzione, no? Per capire come muoversi. Sì. D'altra parte il decreto è stato annunciato sabato sera, si sono rincorse nella giornata di domenica, come diceva lei esattamente, commenti sì, no, Ateco sì, Ateco no, Ateco tutto, Ateco in parte. Lei pensi solo che i due settori più, diciamo, più importanti in termini percentuali di tutta la nostra metalmeccanica, cioè il settore dei prodotti metallo, in metallo, che se non sbaglio codice Ateco 25, quello della metallurgia codice 26, durante la giornata di domenica dovevano essere inclusi. e poi a sera, a tardo pomeriggio, questi codici erano spariti. Immagini il senso di scompiglio, di disagio, di proprio di smarrimento da parte degli imprenditori e dei lavoratori che non sapevano che cosa fare il giorno successivo. Però d'altra parte, io ritengo che il messaggio che ci sia arrivato è che noi responsabilmente come imprenditori dobbiamo cogliere è quello della necessità di un rallentamento delle attività produttive, immagino, per rallentare la mobilità dei nostri lavoratori, delle merci, di noi imprenditori stessi e così via. Non vedo altri motivi, perché torno a ribadire che non c'è mai stata un'attenzione più alta da parte di noi, e faccio un discorso, per carità, confinato alle imprese di Federmeccanica, però devo farlo. Quindi abbiamo sempre avuto un'attenzione elevatissima alle tematiche di sicurezza, immaginatevi se non siamo attenti in questa fase. Detto ciò, se dobbiamo rallentare, che si rallenti, ed è stato usato un righello che era a disposizione per tracciare una riga utilizzando questi codici Ateco. Ora, io penso che il tema di maggior confusione che ha coinvolto anche la componente sindacale in questa fase sia legato alla potenziale discrezionalità della continuare a lavorare o dell'interrompere le lavorazioni. Cioè, siccome la divisione, la linea di demarcazione non è così tanto precisa, perché non sono precise a sufficienza questi codici Ateco, sono nati per un'altra finalità, non per capire quali sono o non sono le attività strategiche, hanno permesso di riuscire a molti a provare a saltellare da una parte all'altra di questa linea. Io penso che questo sia il tema di maggior problematicità in questa fase. È probabile, perché appunto arrivavano dalle aziende, per quanto mi risulta, al Ministero e al Governo sollecitazioni diverse e trovandosi di fronte a qualcosa di mai sperimentato, come giustamente rilevava lei, ci è voluto un po' di tempo e ancora secondo me non si è fatta del tutto chiarezza, anche perché, mi aiuti a capire, ci sono aziende che hanno deciso, ma già da settimane, no, di chiudere, penso ad alcune per esempio grandi aziende del mondo del lusso, e quindi hanno messo in cassa integrazione i loro dipendenti, per esempio. Una grande azienda come Electrolux ieri ha chiesto ammortizzatori sociali, e poi ci sono le aziende che invece dicono dobbiamo andare avanti. Torno alla mia domanda iniziale, Presidente Dal Poz, quelle che vogliono andare avanti a tutti i costi, che tipo di diciamo prevenzione per la salute dei propri dipendenti possono concretamente realizzare? Perché a una catena di montaggio non è che puoi mettere uno a distanza da un metro dall'altro, oppure sì? Ci aiuti a capire come si possono tutelare insieme, se è possibile, la salute dei dipendenti e il fatto che in certi settori non si può fermare la produzione. Allora, questo, lei ha toccato due temi che sono apparentemente in conflitto, e quindi immagini quanto è complicato riuscire a capire come risolvere la situazione. I temi conflitto sono questi: ci sono dei processi che in un tempo ragionevole non si possono modificare, perché ci sono alcune postazioni di lavoro, alcuni processi produttivi che sono oggettivamente a rischio, cioè distanza tra i lavoratori, cioè quantità di persone concentrate in unità di area e così via. Ci sono tanti altri processi produttivi che sono totalmente in sicurezza, ma che apparentemente rientrano nelle categorie, nei codici Ateco, che devono fermarsi a partire da questa sera, ma che non si possono fermare perché sono di sostegno fondamentale ad alcune delle categorie che invece sono ammesse alla prosecuzione dei lavori. Quindi rappresentante degli imprenditori e le rappresentanze dei lavoratori attraverso i tre sindacati metalmeccanici nazionali principali, qualche settimana fa abbiamo firmato un protocollo d'intesa che ci permette di definire molto chiaramente quali sono le condizioni base per la sicurezza dei lavoratori e un meccanismo di supervisione congiunto imprese e lavoratori all'interno delle aziende per capire se ci sono o non ci sono le condizioni per continuare a lavorare, e questo è valido, è in piedi già da più di due settimane. Bene, forse per capire esattamente che cosa fare significa andare a identificare chiaramente quali sono queste condizioni di dipendenza, cioè nel momento in cui una filiera assolutamente strategica ha anche bisogno di, mi faccia dire, viti e bulloni, allora questi viti e bulloni sono indispensabili come lo sono le filiere stesse incluse all'interno dell'elenco, ma si deve porre una limitazione alla produzione di componenti che sono assolutamente necessari, cioè si deve stabilire non una condizione come dire digitale 0-1, ma analogica, ma toni di grigio. Non possono lavorare tutti, ma ci si deve sforzare a ricondurre al numero minimo di lavoratori necessari per la conduzione dei processi critici di dipendenza insieme, cioè lavoratori e imprenditori. Guardi che questo porta alla luce quella difficoltà incredibile che sono la comprensione delle filiere. Noi da sempre utilizziamo queste parole, filiera, la dipendenza delle filiere, immagine l'automotive, l'aerospazio e così via, ma solo in questa fase ci rendiamo conto di quanto siano complesse da gestire, da quanto siano interconnesse e da quanto i flussi di export portano a delle dipendenze relative, cioè non solo l'Italia, ma tutta Europa. Infatti mi permetta di ricordare che già da giorni, come Federmeccanico, come Confindustria, abbiamo proposto quasi un rallentamento, quasi uno stop, quasi un, chiamiamolo come vogliamo, rallentamento delle nostre imprese a livello europeo, proprio perché questi canali e di interdipendenza. E che cosa le hanno risposto? Che cosa hanno risposto dalle altre Confindustrie tedesche, francesi? Che cosa hanno risposto? Amaramente riconosco che non c'è una visione comune tra i vari rappresentanti nazionali, almeno nel settore delle imprese. Noi abbiamo portato a Bruxelles le nostre istanze, esiste una Federmeccanica europea che si chiama CIMET ed è presieduta da un italiano, in questo caso da uno dei nostri vicepresidenti di Federmeccanica, ma è un tema assolutamente difficile proprio perché ci sono delle farraginosità, delle lentezze operative nel portare avanti questi temi che non si realizzano con i tempi di rallentamento o di contenimento di un contagio come quello in essere, purtroppo. Questo non toglie il fatto che a noi, essendo come aziende, le mie aziende sono molto esposte nel settore automotive, io nella più parte dei clienti che ho incominciato a interpellare a partire da sabato sera stessa, ho sentito un po' da parte di tutti quasi una solidarietà, non al 100%, ma diciamo 70-80% sì, quasi una solidarietà, perché questi clienti, tutti collegati nel settore automotive, mi dicevano: beh, tanto tra poco toccherà anche a noi, beh, tanto la grande casa automobilistica sta comunque rallentando, beh, insomma, ci fermeremo, speriamo, per 5 settimane, più o meno come fatto alla Cina, e poi ripartiremo di slancio. Quindi un mix di solidarietà, esattamente come quella che capitava nei tempi di guerra, dei bombardimenti di Londra, ricordo di aver letto molto su quel periodo, e consapevolezza del fatto che tanto le filiere, o in un modo o nell'altro, saranno toccate da questi rallentamenti produttivi. Perché, torno a dirle, il 80% di quei 223 miliardi che da domani smettono di fatturare toccano mezzo mondo. Grazie Alberto Dal Pozzo per essere stato con noi e averci dato anche qualche chiarimento. Presidente Federmeccanica, coraggio appunto. Una pausa, e ci ritroviamo subito dopo e torniamo sugli aspetti più strettamente sanitari e parzialmente politici, inteso come decisioni politiche. A tra poco. Caro Simone, sono un medico che lavora a Modena in ospedale con i malati Covid. Una cosa che non è mai stata fatta a noi medici è di farci il tampone, a meno che non presentassimo già sintomi franchi quali la febbre e la tosse. Questo limiterebbe molto l'ulteriore diffusione del virus e ci tutelerebbe anche noi per riuscire a lavorare con maggiore tranquillità. A Sassari e in Sardegna la percentuale dei medici contagiati arriva al 50%, ragazzi, parliamone. Questo riguarda l'igiene negli ospedali. È da molto tempo che gli appalti per le aziende di pulizia vengono a ribasso, sempre meno, quindi il personale ha delle indicazioni diverse rispetto a qualche anno fa e pulisce, igienizza in un altro modo, e adesso tutti i nodi vengono al pettine. Sta salendo questo tema, cara Maria, tra poco ne parliamo appena riusciamo a raggiungere per Paolo Sileri, il vice ministro alla salute, che sarà nostro ospite tra poco. Il tema sta salendo, il tema, dico, in generale degli ospedali, di come è gestita la sicurezza sanitaria all'interno oggi degli ospedali. Il Fatto Quotidiano ripercorre gli ultimi 30 anni di tagli alla sanità, ed è un'operazione molto interessante quella che fa il quotidiano, ci invita a ricordare come tutti noi forse abbiamo prestato poca attenzione ai tagli che negli ultimi 30 anni appunto sono stati fatti alla sanità. Ma quello che dovremmo imparare da questa tragedia, oltre all'estrema dignità, e lasciamelo dire, sono stati fatti applausi, si fa un riconoscimento verbale a questi operatori sanitari, medici, infermieri, portantini e tutto, poi si spera che un giorno verranno anche riconosciuti loro un po' più concretamente i disagi che stanno vivendo. Sì. Però ecco, la domanda che mi pongo è: d'accordo, c'è stata una mancanza di consapevolezza, non sapevamo che questa tragedia si sarebbe abbattuta su di noi. È un tema, quello dei medici poco protetti, che sta esplodendo ovunque. Come dicevo prima, i medici inglesi minacciano di astenersi dal lavoro, addirittura è il titolo in tutta pagina del Guardian. La stessa cosa sta succedendo in Francia. Le Monde dice: mancano le mascherine, il personale è in difficoltà. Ma la questione della grandissima produzione di mascherine che invece è in corso, quelle che dovrebbero arrivare, 2 milioni abbiamo letto di mascherine che dovrebbero arrivare dalla Cina, quanto tempo ci mettono e come saranno distribuite? Il commissario straordinario Arcuri ha annunciato che è questione di giorni, se non di ore. Mi piacerebbe sapere quando, sì. Forse ce lo dirà Sileri. Che è già in linea con noi, per Paolo Sileri, vice ministro della salute, buongiorno. Innanzitutto come sta Sileri? Buongiorno, grazie dell'invito. Bene, bene, diciamo che sono fuori, ovviamente sto aspettando il nulla osta dell'ASL, ho fatto i tamponi l'altro ieri, il secondo negativo, quindi appena mi danno il nulla osta, ma immagino sarà questione di ore, perché dopo due tamponi negativi dovrebbe essere certificata la guarigione. Apprezzo il fatto che lei, vice ministro, non abbia fatto interviste preventive. Cioè, qui chiunque ha il Covid-19 fa proclami al paese, no? Combatterò la mia battaglia. Lei, per fortuna, anche altri, va detto, comunque non ha fatto scene con la mascherina, non ha fatto interviste preventive, ne ha dato una, ora che è guarito, ci fa piacere comunque di averla con noi questa mattina. Dicevamo, vice ministro, di questo dramma dei medici che non si sentono protetti. Ora, i nostri in Italia stanno lavorando con una abnegazione da applauso continuo. In altri paesi, segnalavo la Gran Bretagna e il titolo del Guardian questa mattina, minacciano addirittura di non fornire quelle che sono le prestazioni che per il giuramento di Ippocrate mi sembra complicato non poter fornire. Com'è la situazione protezione per i medici? Diciamo, guardi, conosco anche i medici inglesi perché ho lavorato lì un bel po'. Credo che forse è fuorviante la maniera con la quale è presentato il fatto che dice no, noi ci rifiutiamo di lavorare. No. Credo che il motivo sia che loro sanno perfettamente che se si contagiano i medici viene meno la linea di difesa per contrastare la malattia e soprattutto l'ospedale può diventare un amplificatore della diffusione del virus. Quindi è evidente che una richiesta forte anche con queste parole è necessaria per tutelare medici e infermieri che stanno in prima linea. Ora, la situazione delle mascherine, è evidente che vi è carenza a questo punto in tutta Europa, ma diciamo era anche prevedibile, perché ricordiamoci, quando abbiamo visto quello che capitava in Cina, è chiaro che serve una preparazione ampia anche per diciamo l'Occidente, quindi ora le mascherine tutti cercano di accaparrarsele, evidentemente prodursele affinché il numero sia costantemente presente sul territorio, perché oggi tutti hanno bisogno di una mascherina. Ora dalla Cina arriveranno, ma non solo dalla Cina, dalla Russia, dall'Egitto, insomma diversi paesi ci stanno aiutando e è iniziata anche la produzione in Italia. Quante ne serviranno? Questo dipende quanto durerà ancora questa ondata epidemica. È chiaro che più siamo in casa, più rispettiamo le regole, prima finirà. e quindi ci sarà meno bisogno di mascherine. Ma le mascherine devono essere date ovviamente agli operatori sanitari e a tutti coloro che in questo momento hanno una funzione pubblica, che ricordo può essere anche quella della cassiera al supermercato, in questo momento è una funzione pubblica anche quella, perché quella ragazza o quel ragazzo che sono lì alla cassa e che vedono decine e decine di persone sono anch'essi a rischio, quindi vanno protetti. Certamente. Sileri, lei parlava già dei, lo accennava poco fa in questa risposta, no, del rischio che gli ospedali diventino dei focolai di infezione. La realtà è che, lo sappiamo perfettamente, è già successo questo. Allora, è successo, attenzione, bisogna che si considerino però gli ospedali come dei luoghi a rischio. Questo non solamente oggi che abbiamo questo nuovo coronavirus, si dice sempre, no, attenzione, in ospedale cerchi di mettere il malato prima quando sta bene, perché in ospedale puoi prenderti delle infezioni. Cioè l'ospedale è il luogo dove è chiaro che più concentrata la presenza di batteri è più probabile che vi sia un contagio, anche seguendo accuratamente i protocolli il rischio esiste sempre. Se poi ci troviamo dinanzi a un'epidemia sconosciuta, perché per quanto possiamo oggi sapere del virus ci manca ancora molto da comprendere. La dimostrazione è che ancora non sappiamo nemmeno qual è il farmaco migliore contro questo virus e se esiste un farmaco migliore, e quindi anche nella via di trasmissione. Avere poi un boom di pazienti, diversi focolai, tanti pazienti tutti insieme, un arrivo, guardate, la Lombardia ha avuto davvero uno tsunami come numero di pazienti, come afflusso dentro gli ospedali, la necessità di avere degli ospedali che siano dedicati solamente a pazienti infetti da questo nuovo coronavirus. Voi pensate, un paziente, un ospedale come strutturato nella normalità si trova a gestire dei pazienti con un virus molto aggressivo anche dal punto di vista di contagio da persona a persona, e non è strutturato per questo, perché anche un paziente che ha il coronavirus deve andare a fare una TAC, quindi deve essere spostato da un reparto e andare in radiologia per fare una TAC. Capite come tutta la riorganizzazione del sistema deve proteggere pazienti e operatori stessi, cioè non è una cosa semplice. Quindi queste infezioni avvenute in ospedale, io aspetterei anche di vedere i risultati finali. Ma ci saranno nuove direttive, Sileri, per gli ospedali sulla gestione di questa cosa? Ma le direttive sono state già, delle linee guida sono state già approntate, ogni regione sta provvedendo. La dimostrazione è che si stanno creando questi COVID hospital, quindi degli ospedali dedicati solo ai pazienti affetti da questo nuovo coronavirus, che è la maniera migliore per proteggere pazienti, operatori e gli altri pazienti non affetti da nuovo coronavirus. Lei come se ne è accorto che stava male? Quali sono i segnali che le hanno aperto gli occhi? Guardi, io avevo fatto il vaccino nel mese di novembre anti-influenzale, quindi era improbabile che potessi avere l'influenza, voglio dire, tutto può capitare, ma il vaccino funziona. Quindi ho avuto un bruciore agli occhi, poi ho perso il sapore del caffè, non sentivo il sapore del caffè, e poi è arrivata la febbre, insomma. Dopo la febbre, dopo il primo giorno e mezzo di febbricola e febbre, è arrivata anche a 38, oltre 38, è arrivata la tosse, e diciamo la tosse è passata dopo la febbre, quindi prima è andata via la febbre e poi piano piano ancora tosse. È rimasta l'assenza del sapore, perdita del gusto e dell'olfatto completamente, insomma, tornerà, se non torna direi poco male, no? Perché quando vedi quello che fa questo virus, al finale, anche se perdi il gusto, pazienza, insomma, vivrò uguale, senza problemi. Allora, c'è tutto un tema, Vice Ministro, che ha a che fare ovviamente col numero di tamponi e il numero di test da fare. Ce lo trasciniamo dall'inizio di questa epidemia. Abbiamo in linea con noi Pier Giuseppe Pellicci, che è il direttore di ricerca dell'IEO, dell'Istituto Europeo dei Tumori, che insieme ad altri 290 scienziati, da capofila per così dire, ha firmato un appello esattamente per questo. Pellicci, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi, grazie. Ci dice, ci dice come la vedete? Ma sì, credo che stanno uscendo i primi risultati di analisi sia delle popolazioni colpite, Cina, Corea, l'isola minore d'Italia, ma soprattutto i modelli matematici con i quali si ricostruiscono le curve di contagio. E questi risultati ci stanno insegnando che più della metà delle persone contagiate sono soggetti asintomatici o con sintomi molto lievi, quali stava discutendo appunto, se ho ben capito, pochi minuti fa. Ora, il problema è che gli stessi modelli e le stesse analisi preliminari del... mostrano che queste persone, con pochi sintomi, nessun sintomo, hanno una potenzialità di contagio molto alta, stimabile fino al 50%, e la possibilità di contagio invece di pazienti purtroppo colpiti dalla malattia. Quindi, in buona sostanza, i soggetti sintomatici o i soggetti lievemente sintomatici sono sorgenti importanti, sì, di disseminazione del virus. È ovvio che non possiamo testare tutta la popolazione, non abbiamo però dite voi, bisognerebbe fare dei test, bisognerebbe, insomma, andare con test più estensivi, no? Il più estensivi possibile, sostanzialmente. I due sono le categorie che in questo momento brevemente, no? Pellicci, perché tra l'altro l'audio, sì, le devo dire, non, sì, è, sì, non è ottimo. Sì, sì, vado velocissimo. Due sono le categorie di persone, sì, ai quali bisognerebbe fare subito il test, e sono: uno, il personale degli ospedali, degli ambulatori, farmacie, ambulanze, eccetera, e l'altro le persone che sono molto esposte al pubblico perché fanno parte di servizi essenziali che non sono ristretti. Mi riferisco ai servizi commerciali, agli autisti, ai tassisti, alle pompe funebri, pubblica sicurezza, e le fabbriche che rimarranno aperte. Allora, sentiamo che ne pensa Sileri. Esatto, va? Sentiamo che ne pensa il vice ministro. Sileri, le sembra un'opzione praticabile? Perché noi abbiamo un collo di bottiglia che è quello dei centri di analisi, ovviamente. Non so se lo stiamo, tra l'altro, se stiamo allargando questo collo di bottiglia oppure no, e quanto lo stiamo allargando. Prego, Sileri. No, è caduta la linea. A proposito di questo, approfitto della pausa per dire che la nostra proposta è quella di mettere a disposizione del Paese i laboratori degli istituti di ricerca italiana. Noi abbiamo una cinquantina di istituti di ricerca in Italia che hanno tutta la competenza e le tecnologie per dare una mano a estendere il numero di test. Allora, aspetti, è tornato Sileri, mi sembra. Sileri, che dice? Allora, quello che dice il professore Pellicci trova me pienamente d'accordo, ma io ho sempre difeso la politica dei tamponi, a partire dall'inizio, quando furono fatti moltissimi tamponi nelle aree che poi furono perimetrate. E ritengo, e lo sto dicendo ormai da un bel po', che il tampone è vero che va fatto a chi è sintomatico, ma siccome c'è sintomatico e sintomatico, e questa è una malattia molto subdola, c'è anche quello che ha pochissimi sintomi, improvvisamente può peggiorare e arrivare ad avere una polmonite che lo uccide. Allora devono essere fatti a tutti coloro che hanno dei sintomi, ovviamente con un raccordo anamnestico fatto bene e quant'altro, ma vedete, bruciore agli occhi, perdi il gusto, bene, devi fare il tampone perché potresti anche averlo questo virus. E poi devono essere fatti a tutti i contatti di coloro che sono risultati positivi. Perché? Perché in famiglia puoi portare il virus, in famiglia c'è poi un altro veicolo che può portarlo a qualcun altro. Tutti gli operatori sanitari devono fare il tampone, deve essere fatto per proteggere loro, per proteggere coloro che trattano e per proteggere le loro famiglie. E poi ovviamente serviranno dei tamponi anche sentinella, cioè a chi? A quei pazienti asintomatici, quindi non pazienti, ma a quei soggetti asintomatici che magari si trovano in aree dove ci sono dei focolai ampi, perché quelle sentinelle ti consentono di perimetrare l'area. Quindi è chiaro che serve un uso maggiore dei tamponi, non a tappeto, non 60 milioni di tamponi, attenzione, ma un uso intelligente affinché ci sia anche una resa del tampone. Altra cosa, i laboratori, ma certo che più laboratori devono fare i tamponi. Cioè, io rimango abbastanza basito quando sento dice sì, ma tutto deve essere certificato da quel laboratorio. Ma scusate, ma sul territorio nazionale abbiamo decine e decine di università, decine e decine di ospedali qualificati di altissimo livello, abbiamo IRCCS, abbiamo delle strutture che sono eccellenze non solo in Italia ma a livello europeo, a livello mondiale, ma mannaggia la miseria, lasciamo fare i tamponi pure a loro, voglio dire, saranno in grado di certificarli. Rimango ancora più basito quando sento che i tamponi devono muoversi dall'Italia per essere ulteriormente certificati dall'Istituto Superiore di Sanità. Facciamo sì che l'Istituto Superiore di Sanità autorizzi altri laboratori più periferici, mettendo il marchio dell'Istituto Superiore di Sanità, ed evitiamo anche spreco di denari. spostarli con oggi abbiamo un problema, ferma Maria, abbiamo un problema, una serie di problemi tecnici che non riesco a comprendere. Comunque, Sileri, intendete farlo, perché insomma ricordiamoci sempre che lei è viceministro, è dentro il governo, quindi io già questo l'ho detto sul piatto. Più di una volta, io questa cosa già l'ho detta più di una volta e continuerò a dirla. È evidente che quando poi ma l'ascoltano oppure no? Ma immagino, voglio sperare proprio di sì, voglio dire, cioè non sto inventando, come diceva mia nonna, l'acqua calda, sto dicendo cosa che è abbastanza intuitiva, voglio dire, cioè in questo momento il nord purtroppo è stato investito da uno tsunami. È evidente che devono esserci più risorse per queste aree, è necessario che ci sia più libertà nel poter fare i tamponi, è necessario che più soldi anche per la ricerca vadano nelle zone dove vengono trattati più pazienti. Cioè, mi sembra abbastanza intuitivo, il tutto messo in una rete che è quella nazionale, che consente condivisione di esperienza, condivisione di dati, condivisione di crescita e formazione. A me sembra abbastanza intuitivo. Non ho detto nulla di strano. No, infatti mi ha tolto le parole di bocca, adesso però bisogna agire, facciamolo. Insomma. Non c'è più tempo. Senta, Sileri, mi fa capire... Se diventerà e quando diventerà, diciamo, introdotta a livello nazionale la strategia del controllo tecnologico che avverta i pazienti asintomatici della loro condizione e soprattutto avverta i non contagiati dell'essere vicini a potenziali fonti di contagio. Questa è una domanda alla quale io faccio più fatica a rispondere. Perché? Perché per rispondere a questa domanda è chiaro che dietro vi è un lavoro che non interessa solo il vice ministro della salute o il ministro della salute e il ministro della salute, ma ovviamente interessa altri attori. Quindi per poterle dare una risposta servirà ancora qualche giorno, nel senso che è come un puzzle che componi con tantissimi pezzi, e ovviamente non è solo il ministero della salute. Io auspico ovviamente che tutto ciò avvenga nel più rapido tempo possibile. Perché? Perché è vero che ora ci troviamo verso un possibile calo del numero dei contagiati assoluti giornalieri, verosimilmente secondario al fatto che le misure introdotte 2 settimane fa stanno sortendo l'effetto. Il problema sarà successivo, quando potremo avere dei casi di rientro, cioè quando il numero di contagi sarà sì più basso, ma è evidente che avremo dei focolai sparsi in Italia, perché magari una fonte di contagio contagia altri. Lì sarà veramente necessario tutto questo. Perché? Perché potrai settorializzare, perimetrare, limitare quelle che saranno le tue azioni di contenimento. Quindi mi auguro che vi sia il prima possibile, e lo vedo molto utile tutto ciò quando inizieremo non a uscire completamente dall'emergenza, ma ci troveremo a fronteggiare, dici sì, non ci sono più tanti contagi, ma adesso che facciamo? Dobbiamo ricominciare a uscire. Ok, come facciamo? Chi può uscire, e cercare quindi di limitare quei piccoli focolai che sicuramente purtroppo avremo. Quindi ci sta parlando Sileri, in sostanza, nel momento nel quale avremo, per così dire, una semi-normalità, sarà comunque un'uscita lenta da questa normalità, cioè non sarà un'uscita veloce, ovviamente. Beh, sarà un'uscita graduale e guidata dalle indagini epidemiologiche. È una cosa sì, certa, sì. Più rispettiamo le regole oggi, minore sarà questo tempo. Cioè, tutti noi siamo ora costretti in casa, siamo, diciamo, preoccupati, perché non abbiamo nemmeno una data. Perché, vede, se io andassi a mia madre e dissi: mamma, guarda, fra un mese tu uscirai, mia madre si mette l'anima in pace e sa che fra un mese uscirà. La verità è che nessuno di noi sa qual è la data di questa fine. La data di questa fine dipenderà da quanto controlliamo oggi il contagio, che dipende da ognuno di noi. Dipende da ognuno di noi. Quindi più rispettiamo le regole oggi, minore sarà la durata di questa stare fermi, ecco. E questo ormai l'abbiamo imparato, per così dire. Abbiamo visto questa data il 31, questa data. L'ho ribadito sì, perché no, è importante, per carità. Per carità. Allora, grazie per Paolo Sileri, vice ministro della Salute. Grazie per Giuseppe Pelicci per essere stati con noi. Per Giuseppe Pelicci, lo ricordiamo, appunto, è capo della ricerca dell'IEO, dell'Istituto Europeo di Oncologia. Siamo in chiusura, cara Maria. È importante che abbiamo capito che comunque l'uscita dal virus dovrà comunque essere essere gestita in qualche modo con controlli anche tecnologici, e questo è già un passo avanti. Ne parleremo. Che aggiunge un elemento. Ne parleremo nei prossimi giorni, certo. Ovviamente, anche di questo. Cara Maria, ci risentiamo domani alle 8.20. A domani, ciao a tutti. Grazie anche a Peter Bescapè in regia, Anita Panizza in assistenza, Giorgio De Luca, Alessandro Marco Tulli, Gloria Guerrera in redazione, Margherita Aine, Francesco Ciaraffo, i nostri autori. Noi ci risentiamo domani mattina alle 6.30. Ciao.